Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Eccoci con l'ultimo giorno di maggio da passare assieme ad Eclettica e a Giulio Caperdoni, ma soprattutto assieme nell'ordine ad uno scrittore spagnolo, ad un musicista inglese e ad un film statunitense. Questo tanto per iniziare, poi vedremo cosa ci riserverà l'immediato futuro. Ho sempre avuto il sospetto che l'amicizia venga sopravvalutata. Come gli studi universitari, la morte o avere il cazzo lungo. Noi esseri umani esaltiamo i luoghi comuni per sfuggire alla scarsa originalità della nostra vita. Ecco perché l'amicizia viene rappresentata con patti di sangue, lealtà eterne e addirittura mitizzata come una variante dell'amore, più profonda del banale affetto di coppia. Eppure non deve essere un vincolo tanto solido se l'elenco degli amici perduti è sempre più lungo di quelli conservati. Il padre di Blas ci ripeteva sempre che la fiducia negli altri è un segno di debolezza, ma per lui ogni barlume di umanità era roba da checche. Colonnello della riserva con simpatie naziste universalmente note, non attribuivamo grande valore alle sue opinioni. In fondo, era più saggio quello che un tizio, finito lungo disteso sul pavimento di un'osteria, un giorno ci aveva gridato: «Io agli amici non racconto le mie pene, chi vuole divertirsi vada a fottersi sua madre». L'amicizia mi è sempre parsa un cerino che è meglio spegnere prima di bruciarsi le dita. Eppure, quell'estate, non avrei potuto concepire le giornate senza Blas, senza Claudio, senza Raul, i miei amici. Questo era l'incipit di Quattro amici di David Trueba. I see you shivering from the cold, you slip in front of me in the queue. The people behind us staring. And you get the privilege of being with me like I get the poetry in motion. Sadness that comes in the mornings will be washed away. You'll see to that, but how long will it last? I believe in the way that you move. I believe in the way that you move. sadness that comes in the night times will fade away. You'll see to that, but how long? About Vietnam is there was always some place to go. Fire in the hole! Go, check out that hole. And there was always something to do. She was dancing so hard. Into a diamond, dancing all by herself, dancing all by herself, and not minding, doing the thing as she dreamed it. Starting tonight. Diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer, diamond dancer. We'll be right back. Ci siamo appena riascoltati l'ultimo Bill Callahan, quello di Diamond Dancer, ma soprattutto prima ci eravamo ascoltati il musicista inglese già precedentemente citato. Ce lo siamo ascoltati per la prima volta e sicuramente non sarà l'ultima. Lui si chiama Jeremy Wormsley, è un musicista 23enne, attualmente residente a Londra, istruito, occhialuto, indossa bretelle. E la cosa certamente più importante è che ha scritto, suonato e prodotto il suo esordio, The Art of Fiction, che segue una serie di 10 pollici, però pubblicati in edizione limitata e fra l'altro anche tutti esauriti. Il brano che vi siete ascoltati in Eclettica era un brano dedicato alla sensualità dell'altro sesso, I Believe in the Way You Move. Ed ora, Junior Boys. Claudio lo aspettavamo da più di un'ora da El Magno e anche se all'inizio avevamo optato per la prudenza, una Coca-Cola e due minerali, poco dopo sul tavolo si allineavano i boccali da birra vuoti e avevamo ingurgitato così tante ali di pollo che da un momento all'altro avremmo potuto spiccare il volo. Un giorno abbiamo fatto il conto e siamo arrivati alla conclusione che passavamo più tempo ad aspettare Claudio che insieme a lui. Aspettare Claudio era una parte fondamentale della relazione con Claudio. Aspettarlo era il nostro modo abituale di stare con lui. Io non arrivo mai tardi perché il tempo che le persone passano ad aspettarti lo impiegano per pensare a te e stai tranquillo che ti scoprono qualunque difetto e magari quando arrivi hanno preferito andarsene. Raul, tanto insicuro quanto puntuale, era quello che si incazzava di più per quei ritardi. Alto, capelli bruni un po' radi sulle tempie, un difetto che occultava grazie allo studiato disordine della chioma, occhi scuri come l'ardesia acquattati dietro gli occhiali di resina nera, inforcati più volte con gesti nervosi. Arricciò il naso dall'alto del suo quasi 1,90 m di ossa sottili e scomposte che parevano reggersi con la solidità di una torre fatta di stuzzicadenti. Diede un calcio allo smisurato borsone da viaggio, che occupava uno spazio 5-6 volte maggiore del mio e di quello di Blas messi insieme. «Che cos'hai lì dentro? Ti sei portato dietro la casa?» gli chiesi. «L'indispensabile, solo l'indispensabile». «L'indispensabile non può tenere tanto posto», rincarò Blas. «Se almeno sapessimo dove stiamo andando», si giustificò Raul. «Avrei potuto scegliere tra i vestiti per l'inverno e quelli per l'estate, ma dato che a voi piace l'avventura...» «Se sapessimo dove stiamo andando, il viaggio non sarebbe divertente. Ma se siamo in agosto, perché cazzo ti porti dietro i vestiti dell'inverno?» lo interrogò Blas. «In certi posti, di notte, fa fresco». Questo era ancora l'incipit di Quattro amici di David Trueba. Kind of rain day is. A little bit of stinging rain and big old fat rain. Rain that flew in sideways. The And sometimes rain even seemed to come straight up from underneath. Shoo, it even rained at night. Possiamo sicuramente annoverare fra le scoperte di eclettica di questa stagione gli inglesi Maps da Northampton, usciti nel 2007 con un album per Mute Records del quale ci siamo ascoltati To The Sky. Ma qualche parola la voglio spendere anche sulle novità, sui primi passaggi all'interno di eclettica, come un brano fa, quello dei Blitz and Trapper Band di Portland, Oregon, tanto per cambiare, una città che non si sente nominare tanto spesso all'interno di questa trasmissione, arrivati al terzo disco che sarà pubblicato il 12 di giugno, dal quale ci siamo ascoltati il pezzo dal titolo Wild Mountain Nation, per poi arrivare al Canada, con cui chiudiamo questa prima parte, assieme agli Shapes and Size. Si tratta di Alone Alive. Diving.